con l'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra per parlare un po' della sua passione. Giorgio, ben trovato. Allora, per chi ci ascolta, cominciamo dagli inizi. Come nasce tutto? La corsa, diciamo, la passione per la corsa nasce, penso, quando avevo pochissimi anni, cioè per me è sempre stato un istinto, ma quello che è di tutti i bambini, cioè correre era il gioco preferito. A 10 anni comunque ho fatto la mia prima gara, una stracittadina della Maratona di Roma, vedendo per caso la pubblicità, papà mi iscrisse e poi la corsa è diventata una parte della mia vita essenziale e molto bella, e quindi ho cominciato a correre sempre di più, sempre più gare, poi ad allenarmi, prima 2 volte a settimana, poi 3, poi tutti i giorni, e adesso spesso e volentieri anche 2 volte al giorno. Ecco, penso soprattutto agli inizi, come sei riuscito ad organizzare la tua vita in funzione della corsa? Ah, non ho mai organizzato troppo la mia vita in funzione della corsa, forse questo è stato, diciamo, una mia mancanza, nel senso che ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare e in più poi ci mettevo la corsa, quindi che ne so, ho deciso di cominciare a lavorare, ho cominciato a lavorare, lavoravo le 8 ore al giorno e poi andavo a correre. Quindi non posso dire di aver modificato più di tanto la mia vita in funzione della corsa, anche se poi è inevitabile che si faccia, però tra virgolette sembra quasi che la metto sempre dopo, poi la faccio, però anche adesso in questo periodo magari devo, che c'è da fare, la rimando alla sera quando magari ho finito tutti gli impegni, forse sbagliando perché per me la corsa dà tanto, quindi dovrei metterla al primo posto. Un po' mi dispiace di come sono fatto, però poi so che la corsa la puoi fare pure a mezzanotte, quindi la lascio all'ultimo, mentre magari altri impegni a mezzanotte non li puoi fare. Senti, adesso, ora come ora, puoi fare una media di chilometraggio giornaliero? Quanto corri materialmente? Allora, per preparare le mie 100 km percorro 30 km al giorno, quindi una media di 210 km a settimana. Quest'anno c'è stata pure la settimana in cui ho corso 40, perché ho fatto le 10 maratone in 10 giorni del Lago Torta, quindi insomma 42 vuol dire quasi 2,90 a settimana. Però diciamo una media di 210 è più giusta. Poi ci sono pure magari periodi in cui recupero un po' e magari faccio solo 100 km a settimana, solo ovviamente tra virgolette. Sì. Cosa ti dà la corsa? La corsa mi dà innanzitutto un senso di benessere, perché effettivamente dopo che hai corso ti senti meglio. Poi mi dà, diciamo, modo di viaggiare, di conoscere tante persone. Senti, come mai questa scelta delle sfide continue? Ma la scelta delle sfide continue, in realtà non le vedo nemmeno come sfide continue. Per me è la scelta di nuove avventure, di nuovi obiettivi, ma mi piace vederle come sfide. Diciamo, no, è come tutto, noi tutti quanti viviamo e ci poniamo ogni giorno un nuovo obiettivo di qualcosa di fare, perché insomma non è che si può stare senza far niente. E così di volta in volta mi pongo dei piccoli obiettivi per star bene, per vivere, però no, non la voglio chiamare sfida nel senso di poter dire sfida, no, sfida è qualcosa che fai quasi per così, appunto per sfidare. Devo vedere se ci riesco, no, io voglio semplicemente farle e poi cerco di farle nella miglior maniera possibile. Senti, due curiosità da corridore. La prima è dove prendi le energie? Le energie sono dentro di noi e le prendo in parte dalla pasta che mangio in grande quantità. A parte gli scherzi, anche nei ragionamenti, nel pensare, nel dire ok, adesso posso farlo ed è bello ed è giusto che debba farlo. Non ci sarà sempre tempo per farlo, quindi devo approfittare del momento. A volte mi ritrovo a pensare quanti vorrebbero fare quello che faccio io e non possono. Se io non lo faccio, manco tra virgolette di rispetto anche a loro. Sono piccole cose, piccoli ragionamenti che sicuramente mi aiutano a dare energia, oltre ovviamente alla pasta, come dicevo prima. E la seconda è come gestisci la grossa attività a cui sottoponi i muscoli e le articolazioni, soprattutto. Ma vado avanti giorno per giorno, ogni volta se sono stanco cerco di riposare un po' di più, se capisco che magari ho bisogno di qualcosa cerco di farlo, però non è che ho una regola precisa, insomma, faccio quello che posso faccio quello che posso di volta in volta, così, cercando di recuperare meglio che posso. Più in generale, in Italia, nel mondo dello sport, in che considerazione viene tenuta la corsa? Beh, la corsa sicuramente è ben considerata, secondo me, uno sport amato da tanti. Diverso amarlo, magari non vuol dire che la gente lo segue, non vuol dire che magari è disposta come magari per le partite di altri sport a fare un viaggio solo per andarla a vedere. Io non sento nessuno che ne so. Fa un viaggio per andare a vedere una gara di corsa, la vede se sta già nella città. Quindi è sicuramente ben voluta, però in questo senso si differenzia molto dagli altri sport, secondo me, perché non si fa quello che si fa per altri sport, per la corsa. Ecco, il paragone che ho fatto poco fa, ci sta tutto, cioè chi tu conosci qualcuno, voi conoscete qualcuno che ne so, attraversa, che ne so, va a Milano o a Roma solo per vedere la Maratona. Se la deve fare, ci va, ma solo per vederla è raro, a meno che non ha amici particolari che la fanno. Quindi sì, è uno sport un po' particolare da questo punto di vista, però ben amato da tantissima gente, molto amato da tantissime persone. Ne parla bene, è uno sport che sappiamo che fa bene, e infatti moltissimi lo fanno. E a livello istituzionale invece viene valorizzata o penalizzata? Ma su questo sento sempre molte polemiche, probabilmente giuste, sul fatto che insomma, se ne dovrebbe parlare di più, dovrebbero dare più importanza a tanti risultati ottenuti. Io personalmente non mi sento di dire di nulla perché è il mercato, tra virgolette, che fa interesse, cioè, e probabilmente molte più persone la seguissero, anche i giornali parlerebbero molto di più, quindi cioè, i giornali fanno il loro lavoro, cioè scrivono su quello che vendono. Sicuramente un po' di più mi piacerebbe che se ne parlasse, insomma, questo. Però dire nulla a nessuno, ognuno fa quello che può, ovviamente il giornalista deve scrivere sull'argomento che gli fa vendere. Ecco, e a livello, visto anche che viaggi molto, a livello di attenzione, ma anche di organizzazione, noti delle differenze tra l'estero e l'Italia? Tutto il mondo è paese, dico io. Ci sono sicuramente delle differenze, ma come ci sono differenze tra una città e l'altra in Italia o tra un'organizzazione e l'altra in Italia, sicuramente, insomma sì, ci sono nazioni in cui credo che sia un po' più apprezzato questo sport, insomma, però no, è così. Sì. Senti, preferisci la corsa in solitaria o ti piace anche a livello organizzativo o anche di pratica e con farlo con gli altri? No, beh, sicuramente è meglio correre in compagnia. Forse è appunto anche un modo per stare in compagnia. Rispetto a tantissimi altri sport, È proprio quello il bello della corsa, cioè è difficile fare, non impossibile direi, fare una partita di calcio con degli amici e parlare, fare un discorso, lo stesso per chi magari va a nuotare in piscina con degli amici. E invece tu ti puoi ritrovare a correre un'ora, a conversare, a chiacchierare, a raccontarti. Questo proprio perché la corsa c'è questa particolarità, appunto, quella che si può fare in compagnia molto meglio di altri sport, anche se lo chiamano uno sport in solitaria. In chiusura, Giorgio, hai dei riferimenti internet per seguire la tua attività? Sì, io tendo sempre a scrivere molto sulla mia pagina Facebook, sì, scrivo pure su Instagram, su Twitter, sul mio sito, però per praticità, forse perché è stato il mio primo social network a cui mi sono iscritto anni fa, scrivo molto sulla pagina atleta Giorgio Calcaterra di Facebook. Bene, Giorgio, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e ci si vede a correre. Va benissimo, viva il lupo e buona corsa. A presto, ciao Giorgio.